Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. We'll be right back. la benemerita etichetta Ever. Io gli farei un monumento all'etichetta Ever per come riesce a trovare nelle lande scandinave gruppi incredibili e li porta alla conoscenza di tutto il mondo. Per esempio, questi sono gli Ungdomsskulen, ma se andate a pescare le vecchie playlist anche di anni di Eclettica, troverete altri grandi gruppi Ever. Ungdomsskulen, vi stavo dicendo, che vengono dalla Norvegia e che dal loro album intitolato Cry Baby ci hanno fatto ascoltare il pezzo intitolato Ordinary Song. E la voce di Giulio Caperdoni, quella che state sentendo, e questa è Eclettica. Eclettica presente fra le 19 e le 20 tutti i giorni della settimana sulle frequenze di Rock FM. Vi ricordo myspace.com/eclettica, dove oltre a poter lasciare vostri segni del passaggio su quelle pagine potete anche recuperare le informazioni sul podcasting di Eclettica. Eclettica che è dotata anche di playlist, che mi torna particolarmente utile in questo caso, perché vi sto per parlare di un gruppo canadese, loro provengono da Montreal e cantano in francese, per il quale eviterei di dirvi il titolo della canzone che state per ascoltare e vi rimando appunto alla playlist. Per ora sono usciti solo con un 7 pollici autoprodotto, si chiamano Pa Chic Chic, da non confondere con quelli con i tre punti esclamativi, e ce li ascoltiamo senza che io vi dica il titolo. Time circuit's on. What do you mean, time circuit's on? Doc, we're not going back now. Yep. Doc, what about Jennifer? What about Einstein? We can't just leave them here. Don't worry, Marty. Assuming we succeed in our mission, this alternate 1985 will be changed back into the real 1985, instantaneously transforming around Jennifer and Einie. Jennifer and Einie will be fine, and they will have absolutely no memory of this horrible place. Doc, what if we don't succeed? we must succeed. 1955, la vigilia di Natale. Benny Profane, jeans neri, giubbotto di pelle scamosciata, scarpe da ginnastica e cappellone da cowboy. Si trovava a passare da Norfolk, in Virginia. Essendo uno che si lasciava facilmente prendere dagli attacchi di nostalgia, aveva pensato di fare un salto al Sailor's Grave, la bettola sulla East Main, dove un tempo si ritrovavano i marinai del suo vecchio cacciatorpediniere. Era passato per l'arcade. Alla fine della galleria, prima di sbucare in East Main, si era trovato davanti un vecchio cantante di strada, armato di una chitarra e di un barattolo vuoto per l'elemosina. Questo era l'incipit di V, di Thomas Pynchon. album che ormai ha qualche mese sulle spalle, ovvero sia il nuovo album di James Lavelle, che utilizza lo pseudonimo di Uncle, dal quale abbiamo appena estratto Hold My Hand, un album che è ancora di là da venire. Infatti si parla di 2008 per la Domino, il nuovo dei Sons and Daughters, quartetto che proviene dalla città di Glasgow. Album che si intitolerà This Gift e che comunque ha una anticipazione. Sons and Daughters, che ci ascoltiamo con Guilt Complex. Ecletica, stagione numero 14, settimana numero 5, volume numero 1. Indice: The Veils, Heavy Trash, Saddlefish, Tiago Lies Losing the Plot, Siberian, My Bloody Valentine, Beirut, Ungdomsskulen, Pashik Shik, Songs of Green Pheasant, Uncle, Sons and Daughters. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.